Claudio? Sì. E allora? Mi è arrivato stamattina, mi senti bene? Benissimo, a Puglia, alla grande. Però i segnali, io qua non lo so. Qua si arrivano a Santiago Nuova. Siamo distanti qua. E poi io sto usando 3 watt, 3 watt e mezzo, non di più. Allora lo fatto andare bene, va. Ascolta, come radio come ti ascoltano? Bella, bella, bella, molto bella. Gappa, gappa. Sto andando con 10 watt, modulati 30-40. Va benissimo, alla grande. E il segnale è cambiato rispetto all'altro giorno? No, va bene che guardo, ma questo switcher non è che mi dà affidamento, è una cosa proprio alla buona, ma alla buona veramente. No, niente di particolare, dunque non è affidabile. Vai! Guarda, a vedere con 10 watt, a vedere se il segnale è aumentato rispetto a quello di prima, perché anch'io stavo usando 4 watt. Diciamo che qua mi segna quasi 9, quasi 9 mi segna. E là già va bene. La radio quindi mi conferma che va bene. Lo sai che la mia non l'ha mandata? Come non l'ha mandata? Per quale motivo? Cosa l'ha fatta? Non so, non c'era dentro la scatola, c'era solo la tua. Vuol dire che non te l'ha ancora piazzato il filtro. Sarà per quello. Vabbè. È un bravo tecnico, ma c'è la testa a pallone. Ma se ha quei problemi, poveraccio, bisogna anche capirlo, se ha quel problema che ti ho detto ieri, poi se sta traslocando, avrà la testa tutta dall'altra parte. Cosa vuoi dire, chia? Vabbè, comunque la radio sta spingendo, è sempre la mia, o devo aumentare ancora come radio? Chiara, bella? No, è bellissima, la radio è bellissima, com'è? A quanto ce l'hai, a uno? Sì, a uno. Allora, va bene, va benissimo, io a Puglia. Gappa, gappa. Andava. Ok. Già l'ho visto il tracciamento. Mi stavo giocando col telefonino e sono riuscito a trovare il tracciamento. È per quello che ti ho mandato il messaggio. Per vedere se effettivamente era così. È arrivata, non so manco che ore sono, un'ora fermi. Un'ora fa è arrivata. Sono dovuto andare a prendermela perché mi hanno telefonato che era la carburante che mi stava aspettando. Sì, lo so, è arrivata alle 13.51. È arrivata. Sì, sono andato a prenderla. E vabbè, 13.51 ce l'aveva lui, io sono andato verso le 2:30. Sì, certo, è ovvio, questo sì, sicuramente. Così c'era scritto, così c'è scritto nel coso, nel come si chiama, nella ricevuta, dai. Sì, già è così, kappa. Oh, cazzo, mi rompo la tenda che non mi abbia mandato la mia ancora. Perché non gli telefoni e così chiedi qualcosa ti dirà? Forse non ho avuto modo di piazzare quel filtro che tu hai chiesto. Quel filtro, quello del filtro della M è indispensabile, non c'era. Cazzo, ce l'ho messa, lo potevo mettere prima di mandarla, invece me l'ha mandata dentro al filtro. Allora gliel'ho rimandata, pensavo che la mandasse insieme alla tua, e invece non mi ha mandato. Aspettiamo, non c'è problema, io non leggo un braccio, a quanto si è arrivata a questa? Ok, certo, non è un problema, no, insomma, credo. No, ma è così qua, sicuramente è così, guarda, non ha avuto modo magari di fare la tua, e allora non l'ha potuta spedire, sarà sicuramente così, se no non l'avrebbe fatto, resta. Non è a quel punto una persona grande. Sì, vabbè, allora avevo un mese d'ora per rintracciarlo per telefono, figurati tu, vabbè, aspetta, mi chiamerà lui, cosa vuoi ti dica? Mi premeva questa, Giulio, la roba mia è roba mia, e mi arrangio io, questa finalmente ce l'ho qua, e almeno è finito, dai. Ok, sì, tranquillo, tutto a posto, comunque intatta, no? Non è successo niente, no? No, assolutamente niente, ma stai scherzando, c'aveva anche il doppio imballo. Ehi, allora, siamo tranquilli qua. Io gli telefonerei, guarda, perché non gli fanno telefono? Ma adesso, quest'ora, allora è pranzo, può darsi che stia anche riposando. Fra un'oretta, secondo me, se potresti fare uno squillo, almeno per sentire, no? Come mai non mi hai inserito la mia, non è pronta? Basta, questo è interrogativo. È un interrogativo abbastanza normale e soprattutto di tuo diritto di sapere, no? Ci conferma. Adesso vediamo un po'. Dopo lo chiamo a cosa mi dice. Ma è sicuramente così, guarda, quella è una persona da parlare. Se è così come stai, mi avrebbe detto che stai trascoccando. E dunque, poi se c'è anche quel problemino che ha, che abbiamo parlato ieri o quando è stato, per cui si sa, è così. Bisogna avere ancora un po' di pazienza. Guarda che stai cercando anche il componente che serve, cioè il filtro, che non l'abbia trovato, sarà anche per quello, che lo sa. I motivi possono essere vari. Sì, sicuramente sì. Perché l'ho ordinato. Avevo ordinato il filtro, mi ha detto che in giro di una settimana sarebbe arrivato. Può darsi che non è arrivato il filtro, quindi la mia non me l'ha piazzata, capito? Non me l'ha fatta. Ti ripeto, intanto abbiamo questa e non me la futti nuda. L'importante è che sia arrivata questa qua, poi non ce n'è problema. Assolutamente no, ci mancherebbe. No, ma allora è così, se non ce l'aveva il componente, l'ha ordinato e evidentemente non l'ha ricevuto nemmeno lui. Vabbè, c'è una settimana fa, diamogli ancora un po' di tempo e sicuramente poi arriverà, perché senz'altro è così. Non si conferma. Ascolta, la vuoi subito o la tengo sotto controllo stasera? La lascio accesa, vedo, vabbè, se tu metti a ricontrolli. Io qua ti ricevo sotto la nuova radio Super 5 e tu mi stai ricevendo uguale. La radio è buona. Niente, quindi stasera vedo un po' di fare qualche prova in FM, banda laterale. No, tieni la stasera tu. Casomai, se è il caso ci vediamo domani, se puoi. Tienila stasera, dai, e così la struttura un attimino e così vediamo un po' anche la situazione, come funziona, no? No, ma comunque funziona benissimo, non c'è problema. Ma visto che ancora la tua non è arrivata, dai, tienila stasera, non c'è problema qua, ci mancherebbe. Te l'avevo detto l'altro giorno di tenerla e provarla tu. E poi eventualmente se credi domani, se no anche lunedì non è un problema, figurati. Non è che l'ho fatto, ma che stai stando, usa lunedì. Non c'è problema, già non ero io di problemi di stare. Mi interessava, ti ripeto, fare questa cosa che ti ho promesso, è stata fatta, è andata tutto a buon fine. Devo solo, siccome tu non c'hai le bande laterali, voglio fare la comparazione magari senza Roberto stasera, con Roberto, ho capito, con la centratura, vedere un po' se tutto è a posto e poi domani mattina te la do. Marco? Avanti Marco. Ciao Giulio, ciao Claudio, non è la tua solita modulazione però, Non è la mia solita modulazione, perché tu la vuoi ancora più spinta. No, diciamo che non è la tua modulazione bella chiara, non te lo posso spiegare. La sento tipo come se fosse in saturazione, no? Come se fosse in saturazione? Ci ho buccato la derivata in saturazione. E tu, che microfono stiamo già? MC60. Proprio la strada, ragazzi, non è la tua solita modulazione. Non è chiara. Non è chiara? Giulia mi ha detto che è chiara e tu mi dici che non è chiara e qua c'è un dilemma, allora c'è, non lo so cosa dirti. No, Giulia, non è come ha fatto a Claudio sempre con le sue radio, questa è... Ma sicuramente, ciao Fra, sicuramente come l'ha regolata probabilmente, cioè non c'è quell'amplificazione molto... diciamo forte, che è assolutamente chiaro, ma probabilmente perché sta usando poco volume, che ne so, e magari il processore, c'è Claudio il processore, oppure il microfono ha 50, 500, com'è? Io sono, non tocco niente, io questo è sempre 50 il microfono. Così con il processore inserito e così è senza processore, guarda, così è senza processore e così è con il processore inserito. No, no. Provarsi che sia io e non che non riesca, però io la sono tutto di braccio. Però va a aumentare un po' il MacGy a vedere, anziché a uno mettilo un pochino più forte. Allora, così a uno, un attimo, leggermente, così, così a uno e mezzo. Sì, già aumenta, però già incomincia a... Vabbè, io non ho una recessione fedele, questo è un baracchino di 4 giugni e non ho una recessione come si deve, la verità. Diciamo che manca quell'amplificazione solita che hai tu, basta, non faccio due parole, la modulazione è chiara, abbastanza bella, non, però non c'è quella solita amplificazione che ti accompagna solitamente nella tua modulazione, tutto io fra, o tu o Claudio. Ma io voglio sentire Franco, cioè Franco, ma una questione di amplificazione o di chiarezza di modulazione? Fammi capire, perché non capisco. No, è la modulazione che non... adesso addirittura è aumentato un pochettino, ha peggiorato un po'. E io ho fatto così, poi non so, Giulio magari ti ha un segnale molto più alto del mio, e potrebbe essere anche diverso, oppure anche la radio. Poi sto usando il capo, sto usando, ti ascolto, non ti ascolto bene, a dire la verità. Provo a abbassare appena il volume come la prima, Claudio, il volume del MacGy come la prima. Prima era un po' più chiara la modulazione. Allora, così ce l'ho uno. Come di solito lo tenevo io col 440. Però tieni conto che questa, arrivando nel laboratorio, non viene trimmer spazzati e questo è come mi viene fatta adesso. Quindi, capito, l'LC... Siamo appunto al casino però in LC. Aspetta un attimo. E provo a vedere con qualche watt in più, forse che sia quello magari, che manca quella spinta solita. No, parlate voi un attimino che attacco lo strumento mio, voglio vedere una cosa. Ok, d'accordo, siamo qua. E allora fa, tu stai andando bene, non c'è problema, la penna tua è stata fatta bene veramente. Capo, mi è uscita al 100%, aspetta un attimino che c'è un amico che sta gridando, aspetta fare che come stava parlando Claudio. Allora, ti Eugenio, buonasera. Eugenio, poi mi lascio qui, mira, va, non so più. Oh, io non l'ho sentito e non lo sento nemmeno adesso. Non lo so, non l'ho sentito la verità. Forse in macchina da qualche parte. Non mi ha risposto, vuol dire che la chiamerà. Niente, sì, mi è uscita veramente bene. Non mi posso lamentare. Sì, va benissimo, Fra. La tua antenna è stata riparata come si deve, va benissimo, veramente bene. Capo, è tornata a livello di quando era la piazza Calvo, perché ho anche oggi l'ho controllata stamattina, ho controllato se era ancora controcircuitata, perché il vento, c'era un pochettino di vento, visto che l'ha mossa, e allora l'ho riprovata, è tutta al 100%. Ok, sì. Sì, no, e poi me ne accorgo da segnale, va benissimo, no? Non c'è problema, va veramente bene, un bel lavoro, finalmente puoi stare soddisfatto, perché, ripeto, dopo che ti ha fatto perdere un po' di tempo, però si è riuscito nell'intento e questo è l'importante. Alla fine mi stava rendendo, non in giugno, stava rendendo, dice, ora ce la prende quel signore, dice. La prendo, la butto giù, la butto e me ne prendo un'altra nuova. Poi così mi è saltato, ho detto, ma hanno mai gatto di chiesa? questo sono rimesso, l'ho smontata tutta, l'ho rifatto di nuovo col cappetto, e l'ho messo più sottile come mi aveva detto Fannino, perché non è difficile. Per il cappetto deve essere nella stessa gamma di quello che hai tolto. Ho guardato uno e l'altro e l'ho messo uguale, la stessa cosa. L'ho misurato tutto quanto, l'ho messo ed è vero. Se cioè, qualche millimetro in più ne ho messo, per dire, con la molla riesce a motorizzare. Sì, va bene, no, non c'è problema. Sì, ma più che altro la lunghezza del cappetto era, diciamo, quella più importante. In quanto a sezione no, no, non, era, non, era, non c'entra niente. Però intanto doveva entrare dentro quel foro, per cui non lo potevi mettere nemmeno più grosso, se no non ci sarebbe passato nemmeno dentro il foro della calotta, per cui va bene così. Va bene così. Vediamo se riprende Claudio. Claudio non riprende, si vede che sta controllando per fine per segno tutta la situazione. Va bene, dai. Sì, è così, Fra, va bene, non c'è che dire, niente da dire. Hai risparmiato, al momento hai risparmiato i soldi dell'antenna, dai. E poi per quale motivo la dovevi abbandonare, visto e considerato che era un lavoro fattibile? Ma è sempre, in ogni caso, in ogni circostanza, la mantova si può sempre riparare, dai. E così è fatto bene. Franco, guarda la cenescente media di radio adesso. No, lo sento sempre lo stesso. No, è tutto a posto qua. È tutto a posto qua, stazionale, non c'è niente, tutto ok. Tu lì c'hai anche la tua radio, la il K, sai. Prova a lasciare il tuo K e vedi. No, non c'ho il mio K io. Il K non è ancora arrivato. È arrivata solo questa. Doveva arrivare tutte e due assieme, invece è arrivata solo questa. Ah, ho capito. Pensavo che ce l'avevi lì. Perché la tua modulazione, questa non è la tua modulazione. Non è. Perché tu, con qualsiasi radio che tu hai sempre usato, sempre, perché ti posso dare anche il mio e usarlo lì, e ti esce la tua timbrica bella, bella prepotente, esce sempre. Mentre con questo, niente. Io già avete di via, non lo so. Non ho una cuffia, ascoltarmi. Giulio, tu mi senti sempre uguale? Sì, ti sento uguale, ti sento. Ripeto, manca solo quella spinta amplificata che solitamente hai tu. Però la radio io sento la tua. Ma come la spinta non è solida. Ma sarà, ora se che sia anche il microfono, non è un altro microfono a cambiarlo, a vedere. Che possa essere quella la differenza. No, non è un altro microfono, ma questo è. Non so. Vediamo un po', questo è l'MC60 che stavo usando io, da sempre. Io non so cosa dirti, perché ripeto, con questo baracchino io non posso nemmeno giudicare, come ti ho già spiegato, perché è una cosa che non va assolutamente bene in ricezione, per cui so che c'è la potenza, quello sì, voglio dire, nel senso che la radio è abbastanza alta, però poi per quanto riguarda il resto, sì, l'applicazione manca, non è che sia bassa, sia ben chiaro, è abbastanza forte, però non c'è quella aggressività, dai, chiamiamola così, del tuo rimbombamento, no? che fa quella specie di profondità che dà la tua radio solitamente, quello che manca. Sì, è uguale, sì, in effetti è uguale. Se stai andando con 10 watt, prova a dare 15, 20 a vedere, può darsi che sia quello, magari con più watt la potenza aumenta anche la radio. Vabbè, c'ho 10 watt e picchi di 40. Mettiamola così, no? Mettiamola 20 watt e picchi di 50, 60. Così. Sì, ma non cambia niente quello, non cambia. È proprio la timbrica di modulazione che è diversa. ma tutta diversa. E, diciamo che io, per dire, adesso non c'è né quel reme né niente, e riesco a capirlo, ma se no non riesci neanche a capirlo. Addirittura, che tu ci faccio da dire, se sentiamo se che tu, vabbè, io rimetto com'era la potenza, perché così mi ha detto di usarla e così la devo usare, non so, io non posso toccare niente perché è arrivata nel laboratorio sta radio, quindi non capisco fra quale sia il problema, non lo so. Tu mi arrivi basso, mi arrivi un segnale di 4 a portante muta, poi arrivi da 4 a 6 modulato. Sarà un problema tuo, cosa vuoi che dica? Giulio c'è al baracchino, adesso aspetto stasera quando entra qualcuno che mi arriva più forte di te, vediamo. Ma probabilmente Franco, e adesso lui si è spostato, non è più in una solita zona, tu magari l'hai sentito, hai la memoria di quando era nella vecchia casa, adesso è in un'altra posizione, sarà anche quello, certamente ci può essere differenza, anzi sicuramente c'è differenza, Franco. Avete parlato in due, Giulio. Guarda, io non sono né di fronte a te né vicino a te. Franco, io sono abbastanza lontano da te, capito? Quindi non lo so. Io ho capito che sei lontano, io non ho capito. E non c'entra niente, però la modulazione, la timbrica è anche per quella. Perché se prima per io tu mi muovi da lì, uscivi con la tua radio, uscivi bene. Ma anche se non c'è di segnale, il segnale è basso, però la radio era micidiale. Ma da dove? Da Monteoro? Da Monteoro ti ho stato ascoltato. L'altra volta non hai parlato da Monteoro. Vabbè, ma io non sono Monteoro adesso. Tutta un'altra cosa. Monteoro è arrivato solo al canile, no? Non sono Monteoro io. Tranquillo, vabbè, probabilmente la distanza allora. Cosa devo toccare? Cioè, la tana è arrivata al laboratorio, non posso mettere a toccare niente. Anche se la conosco, ma tu mi dici che la modulazione non è la mia, io ti capisco, la radio questa non è la mia, questa è la radio di Giulio, quindi sicuramente non è spinta come la mia, non è la timbrica della mia, non lo so, quindi non posso mettere a toccare una cosa che non è mia, a prescindere, ma a parte il fatto che è arrivata al laboratorio, quindi non devo toccare niente. Mi dà Santiago Rova, la radio per lui è buona, la radio questa è la sua, non è la mia, quindi se lui mi dice che la radio è buona io non posso fare altro che niente, non lo so. Sì, sì, ma niente di scorso, dai, no, tranquillo, probabilmente che sia anche cosa della distanza. Poi Giulio ti ascolta molto meglio di me, ti ascolta, ti ha detto poco fa, se non sbaglio, un segnale di nove, poi mi ti dovrebbe ascoltare anche meglio del radio, e probabilmente è così, dai. Vieni stasera a vedere con gli altri più vicino, vedere. Va bene, io non posso fare niente, perché, ti ripeto, non posso toccare niente. Se Giulio mi ascolta, Santiago Nova, Radio 5, tu mi dici che la radio non ti piace, questo è cessato, la radio non è la mia, è la sua, quindi della mia ne rispondo io, di questa ne risponde il tecnico. Tecnicamente la radio è a posto, i voti sono giusti, stazionaria non ce n'è, è tutta regolata bene, cosa devo fare io? Non è che non posso bugnare toccare la radio di là. No, ma per carità, non volevo dire a quello. C'hai ragione al 100% lì. No, va benissimo così, dai. Avanti giù. Ok. Ma per me va bene, poi vedo che ti dica, fra. Io non lo so. Io dico che magari tu non ti differenza, perché adesso lui è lontano rispetto a prima, per cui ti manca quella memoria della radio che aveva prima, e poi si sa. Da radio a radio ci può essere sempre delle differenze acustiche in una maniera o nell'altra. Per me va bene, poi cosa vuoi che dica? Non so cosa dire. Premesso che io non ho una buonissima ricezione, però la radio per me va bene, è forte, è chiara, niente da dire, ecco. Per conto mio va bene. Vai, vai qua. Beh, io non posso mettere a toccare niente qua, purtroppo, non è che posso minimettere il lavoro fatto da un tecnico, assolutamente no, non ci posso neanche minimamente. Adesso la tengo sotto controllo, stasera chiedo degli altri controlli, se mi dicono che la radio va bene, è un problema tuo, fra di distanza, di ricezione, non so se hai qualche problema, ho sentito che avevi problemi in antenna, qui e là, non so. Però ti ripeto, questa radio è a posto, è fatta tecnicamente, non è fatta così. E poi ti ripeto, non è la mia, quindi non posso mettermi a correggere quello che hanno fatto gli altri, anche perché non sarei capace, perciò per me va bene così. Capo, sì, sì, Claudio, no, va bene, dai, non preoccupare. Sì, ho avuto un problema all'antenna, ma però l'ho risolto, non è un problema adesso. Sta andando benissimo, adesso sta andando. È ritornata a rinascere. Sta andando benissimo. Non è quello il problema. No, solo che ho fatto quell'appunto solo per quello, perché non mi sembra che sia la solita radio, dai, giusto, è giusto anche quello che hai detto, che la radio non è tua, è la di Giulio, e la Kindrick anche, può anche svariare un pochettino, quello è giusto. Con l'esperienza che abbiamo fatto con questa radio, io penso che sia così. Capito, questa è la sua ed è così, io nella mia ci ho fatto diversi lavori, diverse cose, anche per capire insomma, altre cose, però può darsi anche che qualcosa gli sia sfuggito al tecnico, non lo so, ma lui ha fatto quello che doveva, che era il problema della radio, che praticamente non andava in trasmissione, poi se si è dimenticato di fare qualche regolazione. Questo io non lo so, non lo so perché non posso saperlo, tutto qua. Va bene, avanti Giulio. Break. Avanti Break. Grazie, ciao Giulio, ciao a Claudio, ben sentito dopo tanto. E ciao anche a Franco, avanti che ne fate entrare Giulio. Ciao Fra, ben entrato, dai. Sì, sono in compagnia di Franco Di Sorso e Claudio, che stiamo andando avanti. Vai Claudio. Ciao Fra, buonasera, ben ascoltato, cordialità. Sentiamo anche per te. Radio Super 5, a me come mi ascolti? Non c'è paragone rispetto a prima, però io sono agganciato, il segnale qua è 3, la radio è 4. Hai lo stesso segnale di Franco, di Sordo, ma lo sai che io praticamente non mi vedi più a me, sono in basso io, tu sei dall'altra parte. Tu più o meno già lo sai dove sono, quindi sono abbastanza distante, ma io so se non lo vedo, quindi non vedo niente, né Sace né Sorso né Scena, non vedo niente, ok, quindi va bene. La radio è buona, ti chiedo questo almeno, va bene? Sì, sì, in proporzione al segnale la radio va bene, è anche, si sente che è corposa, potresti anche abbassare un po'. Guarda adesso che sono liscio, quindi facciamo un rapporto, adesso sono con 4 watt e 5 watt, dai. Santiago 6 e Radio 5. Così sono quei vatti dall'apparato, dai. Comunque va bene, comunque ti sento già qualcosa, dai. Pensavo di non sentirti più da quella parte. Dai, saluto anche Franco, lo mando avanti, avanti Franco. Ehi capo, ciao Radio Franco, ben ascoltato. Sì, io anche io, sì. Adesso poco fa mi è arrivato un po' quasi 9. E adesso invece ti sei abbassato anche tu a 3, ti sei abbassato, non so cosa hai fatto. Diciamo che ho tolto le vitamine poco fa. Ah, capo, adesso sì. Io ti ascolto benissimo. No, io siccome a Claudio non lo ascoltavo, il suo genere lo ascolto come di solito, che lo ascoltavo sempre. Ma probabilmente anche dipende anche dalla distanza e via. E probabilmente è quello lì, è quello che stavo dicendo a Claudio. Avanti Giulio. Ok, sì, va bene, no, comunque per me va bene, poi non so cosa dirti, per me va bene la radio, la verità, il segnale è anche buono, devi considerare che da dove sono io, da dove Claudio, adesso ci sono una ventina di chilometri più o meno, non è più vicino come la prima, adesso siamo più o meno a una ventina di chilometri, per cui per me va bene, non so cosa dirti, guarda, veramente. Va bene, dai, va bene qua. Sì, adesso bisogna ridistribuire tutti i segnali, sono parametri diversi, zone diverse. Non so neanche se l'antenna sia messa in posizione definitiva, se ancora dovrà sistemarsi, dai, anche lui, in fase transitoria. Così è, Claudio. No, beh, l'antenna è piazzata definitivamente bene, è che vuole sollevata perché è abbastanza bassa, ma non è che mi interessi più di tanto, io ho già dato l'ultimatum a queste cose, ho già dato per 40 anni con ottimi segnali, con ottime prestazioni, sia ricezione che trasmissione, qua non è così, perciò sarà un punto di riferimento per fare due chiacchiere, per sentirci, ma non ho alcuna pretesa di poter arrivare in capo al mondo come prima, non è che mi interessi più di tanto, su questo non ci piove, è giusto per avere sempre il mio hobby e quando capita, se è possibile, fare due chiacchiere, altrimenti la radio rimane spenta, no? Non sono più come prima, tanto è vero che di radio ne ho una sola, solo la linea del 440, del 430 e basta, tutte le altre radio sono ancora dentro una scatola perché non mi interessa manco toglierle, non voglio più fare niente di che. Avanti, Franco. Franco, io, no, vedrai se sollevi qualcosa, magari, se sarò fortunato anch'io, solleverò anch'io, ci copieremo ancora meglio, vedrai. Avanti Franco di Sorso. Claudio, abbiamo perso la torre di controllo, allora abbiamo perso. Beh, sicuramente ci avete perso la torre di controllo e a caso sbaglierò pure perché io qua non è che abbia molto tempo di stare attaccata alla radio, adesso questa l'ho attaccata perché giustamente di Giulio è arrivata oggi, ma sono occupato io per mandargli alla centro assistenza, ho fatto tutto io, quindi devo portare a termine il mio lavoro. Dopodiché domani questa io gliela restituisco e non è che sto in radio, sicuramente, capito fra. Non ha più tempo e poi ti ripeto, non avevo neanche intenzione di piazzarmi antenna, sicuramente il problema era quello, poi ho detto ma sì, la piazzo giusto per ascoltare, per fare. Ho visto che arrivo, basso ma arrivo e quindi la lascio stare, se non ne vuoi godutto, non me la futti più nulla. No, Claudio, arrivare arrivi, anzi, come segnale arrivi bene anche di radio, non è quello il problema, arrivi anche bene di radio, è comprensibile la radio, al 100%. Però, guarda, puoi perdere la torre di controllo, ma Claudio Spaviero non lo perderai mai, Beh, la torre di controllo l'abbiamo già persa, la torre è caduta, c'è passi, non c'è più niente, però vabbè io ci sono e continuerò a farmi sentire quando è possibile, per quel poco che mi è rimasto già mi sentirete ancora, dai, non è un problema. Avanti Giulio. Ok qua, ma io invece dico un'altra cosa, forse hai perso qualcosina verso Sassari, però sicuramente hai acquistato andando verso Cagliari, sicuramente così qua, e dunque la torre di controllo ci sarà sempre, io penso proprio così. Ma comunque non è poco, a me mi stai domandando Santiago Nome a questo smitter e tutto quanto ho messo male, e devo dire dal radio per me è ultima, poi non so, evidentemente tra dove sei tu Claudio e la zona di Franco di Sorso ci sono altri problemi, che del resto anche dove di prima non è che avevi un grandissimo segnale verso Sorso in quella zona tutta, mentre invece da tutte le altre parti arrivavi sparatissimo proprio alla grande. Però ripeto, oggi sei molto più lontano di dove eri prima, per me va bene, poi non lo so. Anche Franco di Sassari mi conferma che la radio va bene, per cui cosa dobbiamo fare? Per me va bene, basta. Vai Franco di Sassari. Sì, giusta osservazione Giulio, è così. Le zone cambiano e quindi cambiano tutto, cambiano i segnali. Io poi per quella zona sono negativo, tipo come si chiama il ragazzino, Riccardino, ti ricordi? E tutti lo sentivano bene e qui non arrivava, eppure ce l'avevo due passi qua, diciamo, dietro Montiburo, dov'era? E così, avanti Franco di Sorso. Capo, sì, basta il niente che il segnale non lo ricevi, quello già è vero, lo so. purtroppo a me quel ragazzino mi arrivava abbastanza forte, qua mi arrivava non forte forte, però un segnale di 9-5 mi arrivava, come mi arrivava anche Claudio da Sassari. Cioè, era, ultimamente era fortino quel ragazzo, poi è sparito, non so perché, niente. Lui come mi arriva basso sono tre o quattro da Sassari che non mi arrivano basso e basso. Non so chi siano qua. No, ma ripeto, c'è gente anche a Sassari, il lupo grigio ce l'ho a 500 metri, non lo sento, mi dà un fastidio anche quello. Avanti, Claudio. Claudio, impegnato, avanti Giulio. Ok, sto probabilmente al telefono. Sì, ma in effetti è così, è chiaro, se cambiano le posizioni cambia tutto, tutto il sistema diciamo che subisce un cambiamento addirittura forte. Perciò non c'è da meravigliarsi, certo, d'altronde. Però io sono sempre convinto che adesso Claudio magari ha preso qualcosina verso qua, però guadagna verso, andando verso Cagliari, ne sono più che convinto che avremo la conferma magari quando lui riesce a collegare qualcuno da quelle parti lì, vedrai che ci dirà che sente persone con segnali abbastanza buoni, eccetera, eccetera. Sicuramente è così, va bene, dai, comunque. Ultima radio, dai. Claudio, sei rientrato? Sì, un attimino, stavo facendo le comparazioni col baracchino. Ho visto che col baracchino tu arrivi 8, quindi qua arrivi 9, perciò anche i segnali sono giusti, dai. Ecco, il timbro è uguale, non mi sembra che ci sia differenza, come fanno in radio, e fanno solo in radio, meno Franco di Sassari. Adesso stai usando che cosa? Che apparato hai usato l'ultima volta? Questo è sempre il K, questo è il K di Giulio, questo è il 440 che è arrivato oggi e lo sto provando, che era il centro assistenza, io non sto provando niente, è sempre il K questo. No, ho capito che stavi provando ad attaccare il baracchino per vedere se i segnali cambiavano. Sì, beh, c'ho commutatore, ho commutato da qua, nell'attimo che non ho ripreso, ho commutato per la ricezione, per vedere i segnali. Qua arrivate un segnale qualcosa in più, mentre il baracchino un segnale in meno, ma è normale, quello è uno smitter di baracchino, questo è uno smitter un po' più professionale, tutto qua, sto facendo solo queste comparazioni. Certo, un minimo di scatto ce l'hanno questi baracchini, anzi. Un attimo di bianco. Vai Franco di Sosso. Ecco, vedi, sollevo un po' la propagazione, non ascolto più la Claudio, per carità. La propagazione è forte, quando entra è forte, ogni tanto sento qualcuno che mi arriva da 7 e poi passa a 9, è un casino. Giulio, e allora? Sì, è arrivato alla radio. Adesso la tiene sotto osservazione Claudio, stasera poi vedremo, così almeno, anche perché potrà chiedere controlli ad altre persone, a chi ha radio sigle, non come quella che ho io adesso in questo momento, che io ho un semplicissimo baracchino vecchissimo, per cui ripeto ancora una volta, la ricezione per me qua non è delle migliori. Pertanto, però per come lo sento io a Claudio, per me va bene, non niente da dire, è la verità. Lo sento forte, bello, chiaro, pimpante, è tutto così, oltre il resto. Non so cosa dire, ognuno di noi ha la sua ricezione, chiaramente, come il resto anche alla sua trasmissione. Pertanto, andiamo avanti così, va bene, per me va bene. Claudio, sei in grado di riprendere? Sì, sono in grado di riprendere, però vi saluto, Vi saluto e rimango in quel ricchialimento, ci sentiamo stasera, ok? D'accordo qua, a stasera allora, dai. Così tienilo sotto esame e così poi sentiamo un po' i pareri che ti danno gli altri, soprattutto verso ad esempio Gianfranco, anche Roberto, eccetera, eccetera, insomma, radio importante. Va bene, avanti Franco di Sassari, sei rientrato? Dai, rientro solo per salutare Claudio, dai, un abbraccio a te e famiglia Claudio. Avanti Franco di Sosso, un attimo di bianco sempre per me. esatto. Ciao Claudio, allora vai, ci sentiamo. Sì Giulio, probabilmente come ha detto Claudio poco fa, che fare la distanza e queste cose qua. Poi magari tu l'hai ascoltato molto meglio perché con un segnale molto più alto anche, tende anche a avere la radio più... mi sentirò non molto migliore, probabilmente quello lì. Vediamo poi, dai, quando magari ce l'hai tu a vedere come esce la radio, probabile che sia così come ha detto Claudio, o probabile, sicuramente sarà così perché come ha detto Claudio vuol dire che lui ce ne intende anche molto molto più di me queste cose, va bene così, avanti a te Giulio. Ok, beh certo che sì. Questo no, non ci piove, lo sappiamo benissimo, del resto lui la sta usando quel tipo di radio lo sta usando da 30 anni come minimo, per cui se non lo sa lui, figurati se lo posso sapere io o qualche altro, no, comunque per me va bene, poi non so cosa dire, è anche una questione di gusti secondo me, e secondo me è anche una questione di microfono, perché alle volte un microfono, anche se uguale, è lo stesso tipo, da una radio all'altro, per conto mio, potrebbe anche esserci un minimo di differenza, e perché no, non è escluso, del resto non c'è da meravigliarsi. Va bene, Claudio mi sembra che ha salutato, se ricordo bene, ci sentiamo stasera. Confermi Claudio, hai staccato per il momento o sto sbagliando io? No, rimango in quel ricci, stasera. Ok, d'accordo, qua, stasera, ci sentiamo. Bene, riprendi di nuovo Franco, l'altro Franco è in quel ricci, c'è anche lui. Sì, ho fatto un po' di quel ricci, probabilmente anche adesso. Sì, Giulio. Comunque, sicuramente va bene la radio, non è che magari io ascolto così, ma perché quando parla anche Claudio c'ha un po' di corrente sotto, probabilmente quella anche la distanza, ma sì, può essere anche quello questo, però la radio non penso che esca male. Visto che voi la sentite molto bene, probabilmente sta uscendo bene, sta uscendo la radio. E sono io che sono lontano, là. Certo, non è che sei dietro l'angolo, Frate Claudio, una certa distanza c'è, non ci sono dubbi, come c'è fra me e Claudio? Te lo credo, ripeto, meno male siamo a una ventina di chilometri, capita, quando tu pensi questa frequenza, io parlo della frequenza, non della radio, parlo della frequenza, di solito, tante volte ho letto che questo genere di trasmissioni su questa frequenza può arrivare sia no a 30 chilometri, mentre invece tante volte arriviamo anche a 60 chilometri, per dire no. Per cui per me va bene, poi ognuno ha le sue idee, ma per me, per conto mio va bene, io sono contento di averla sentita così e per me va bene, la verità, no, non ho niente da dire, per cui, se no, che cosa dire? Guarda, io quanto sono, aspetta, sto guardando, il microfono, sì, a tre, no, credevo che avevo un microfono ancora più basso, mi state ascoltando, invece no, ho un microfono a tre solamente, sempre il MB24 qua. Sì, sta uscendo benissimo, tu, ma che si è abbassato di un millimetro, ma niente che si è abbassato, né ha fatto, va bene, quando sei entrato è sempre così, va bene, è una bella modulazione, anche se c'è un barattino. Avanti break, chi è? Guarda, se puoi aumentare, perché se no non ti sento, prova ad aumentare, perché io personalmente non ti sento, non so se gli amici ti sentono, prova, riprendi e aumenta, dai. No, mi dispiace, ma non ti sento, Sei Santiago 3 qua, alzi anche scarso, e c'è QRM che è più forte della tua radio. Prova a migliorare la situazione, perché io, ripeto, non capisco quello che dici. Avanti Franco, tu l'hai sentito questo amico? Sì, sento che parla, però non capisco le parole. Poi c'è stato un altro break, vediamo un po'. Avanti un altro break. Scusa, ma io non parlo francese, non capisco la verità. No, Giulio, hai capito? No, io non capisco il francese, non lo capisco se il francese arriva molto basso. Attento a mon ami, io non capisco, non capisco, per cui non so cosa dire. Al massimo ti posso dire 73 più 51, ma niente di più, perché non capisco la tua lingua. Mi dispiace, se tu sai parlare l'italiano va bene, diversamente non saprei cosa dire. Vediamo un po', avanti, riprendi ancora. Avanti, Brecchi. Sono entrato, Ok, boh. Lo so, io non capisco quello che dice, per cui non so cosa dire. Mi dispiace, mon ami, ma non ascolto, non ascolto bene la tua modulazione, non ascolto bene la tua modulazione. Avanti, Franco di Sasse. Sento qualcosina anch'io, ma qui arrivano proprio a livelli impercettibili. Molto, l'antenna la mia non è sul tetto purtroppo, mi sento a malapena. C'è un po' di preparazione sicuramente, così è Giulio. Sì, si sta facendo la preparazione, infatti questi due amici sono stranieri, prima uno, poi l'altro, ma ripeto, il secondo mi è arrivato più forte, sentivo un po' più chiaramente quello che diceva, ma niente di più, perché ripeto, non conosco la sua lingua, per cui non so cosa dire. Mi dispiace, buon amico, non capisco, non capisco. Ok, avanti Franco Sorso. Chiappa, se avessi saputo le lingue mi sarei diventato anche radioamatore, ma siccome non so le lingue, è niente radioamatore. Vero, Giofra? Franco, non Gianfranco, Franco, come te, chiamami come te. Vabbè, non vuol dire, non penso che tutti questi radioamatori siano esperti di lingue, sapranno anche loro, insomma, l'inglese, non saprei, dai. Quante lingue devi sapere, Giulio? Ma si può fare il radioamatore anche parlando la sua lingua originale, senza parlare altre lingue, solo che se uno parlasse anche l'inglese sarebbe un radioamatore più completo, per così dire. Però diciamo che utilizzando il codice Q e collegamenti anche con le persone dall'altra parte della Terra si potrebbero fare ugualmente. Si tratta solamente di avere anche una certa esperienza per poter comunicare in quelle frequenze soprattutto. Allora sì, però oggi è più facile, oggi si va in packet, per cui tutto in digitale è più facile, col computer non c'è bisogno nemmeno di capire le lingue, al massimo devi saperle leggere. Franco Sorso, vai. Capo, quella non è radio è questa, non quella là. Scusa Fra, io mi sono confuso con Gianfranco. Vabbè dai, sempre Franco siamo, vai. Avanti Franco. No, ma figurati, anche poco fa, magari mi hai sentito male, ho parlato male io, non lo so. Comunque, non c'è nessun problema, non ti preoccupare. Tu basta che ti ricordi il tuo nome e ti ricorderai anche il mio. Poi Gianfranco ha una voce completamente diversa, di una tranquillità estrema proprio. Sì, quello già è vero. Vabbè, io adesso mi sono un pochettino confuso. Infatti, tu sei Franco Binario, se non sbaglio. Sì, Binario, Freccia Rossa, sempre roba di treni, da. Capo. Ma guarda, a dire la verità, nell'80, adesso non mi ricordo, nell'87 mi sembra che era, sono stato anche io nel corso della strada ferrata facendo il casellante qua a Sorso. E sai, me ne stavo quando ho cominciato proprio a fare, adesso non mi ricordo in quale anno era, e ho cominciato a modulare e mi stavo mettendo proprio Franco Binario. Ah, visto, quindi conoscerai a cosa Augusto? Sì, Augusto! Cagliardino! Augusto Cagliardino, Mario Maccione! Mario è mio cognato! Mario, sì, è un po' che non lo vedo, saluto dalla parte mia, stanno tutti bene, sì? Sì, Mario abita qua vicino a me, lui lo sai che l'hanno isolato dal lavoro. Lo so, purtroppo lo so, che dovevi fare? È andata così? Augusto, vai in pensione. E tu? E io ancora, boh, dipende cosa fanno adesso con queste leggi. Siamo nelle mani di questi, non dico imbecilli, ma è così. Guarda, fra, quegli imbecilli mi sa che hanno deciso di buttarlo fuori con la legge Fornero, hanno deciso. Speriamo che succeda qualcosa di buono. Va bene, avanti Giulio. Ok, fra. Beh, certo. Poi parlando di Franco, io ho pensato un attimo al Franco Moretta, e voi siete Franco e io sono Dollaro, per cui il fatto di scambio di moneta non è che siamo male. Vabbè, a proposito, io non so proprio che nominativo avete voi due, o perlomeno non me lo ricordo. Ve lo volete ripetere per cortesia? Ad esempio, Franco di Sassari, io sinceramente ti chiamavo Franco Ombra, io mi ricordo, infatti nel telefonino me lo sono registrato così, Franco Ombra, per distinguere da altri Franco California e da Franco di Sorso. Avanti Franco. Allora, Ombra praticamente è la mia 50, quindi era lei Ombra. E invece io quando riparo di quanti anni fa, 30 anni fa, usavo come nominativo Snoopy, Franco Snoopy, ma poi ho abbandonato un po' la radio e adesso sono rientrato. E volevo mettere Freccia Rossa, perché invece un giorno mi ha chiamato, come si chiama, Roberto Binario, capito? Ah ok, ma è bello, anche come binario è un bel nominativo, bene, sì, no, sì, lo so che Ombra era il nominativo della tua 50, questo sì, appunto, ma per distinguere, nel telefonino io mi sono fatto nella rubrica quel nominativo lì, Franco Ombra, proprio per capire. Perché visto e considerato che c'è Franco di Sorso, poi c'è anche Franco California e poi ce ne sarà qualche altro in giro che adesso non lo ricordo nemmeno, comunque va bene così. Mentre Franco di Sorso, com'è il tuo nome nativo? Che non me lo ricordo più, Fra. No, veramente non l'ho mai detto, perché allora io qualche anno fa, fino al 2000, c'avevo Franco Attila, c'ero io, Attila e un altro, adesso non mi ricordo di dove era, Tonino Attila mi sembra che era, adesso non mi ricordo bene. E poi io quando sono rientrato solo semplicemente con Franco di Sorso. Ah sì, adesso me lo ricordo, sì. Sì, infatti Tonino di Usini si chiamava Attila, sì, Tonino Attila. È vero, ma adesso ormai lui ci manca dalla frequenza un bel po' di anni, non si è più fatto sentire, va bene così. Bene. Vabbè, che poi questi nominativi così lasciano il tempo che trovano, però servono per distinguere, proprio nel vostro caso, qua con tutti questi nomi Franco, uno per intendere deve anche avere un minimo di segnalazione, per cui va bene così. Avanti Franco Sassari. Sì, ormai in questi casi di omonimia ci vuole un nominativo, dai. Vabbè, Franco di Sorso, anche io l'ho sempre conosciuto Franco di Sorso, anche perché forse non so se ce ne sono stati altri Franco da Sorso. Adesso non vorrei ricordare male, ma qualche anno fa, quando io abitavo in campagna, come si chiama, Villa Gorizia, e può essere che tu sei venuto a casa mia con, proprio con cosa, come si chiama, con, come ho detto poco fa, con Augusto. Con Augusto? A Villa Gorizia una volta ci sono andato con Augusto, però non mi ricordo dove siamo andati, ma lo sai. Può essere. Io abitavo lì vicino al bar, io mi ricordo una volta Augusto è venuto con un tipo che si chiamava Franco, mi ricordo forse io, di Sorso. Ce ne sono stati altri Franco di Sorso che modulavano? No, negativo, solo io c'ero, e ci sono tuttora. Allora, il nominativo di Ombra me lo ricordo benissimo, me lo ricordo. Mi hai detto tu che è la tua 50. Poi Snoopy me lo ricordo lo stesso. fatto se qualcuno vuole entrare. E allora vedete che è così, ci siamo anche conosciuti 30-40 anni fa, cioè, non mi ricordo, più di 30 sicuro, dai 35 forse, sui 35 anni fa. Vediamo se qualcuno vuole entrare, Giulio lo fa entrare. Ok, avanti l'amico del break, però sei basso, fatti sentire, avanti l'amico del break con la buonasera. Ok, ciao Fabrizio, salutoni, qui è Giulio dalla città di Sassari, nord Sardegna, Italia, per cui in compagnia di Franco, che adesso ti mando avanti, Franco dal paese limitrofe a Sassari, che si chiama Sorso, avanti Franco, e poi ti mando un altro amico, sempre Franco, ma dalla città di Sassari anche lui, avanti Franco di Sorso. Capo. Ben ascoltato Patrizio, mi sembra che l'ho sentito io, non Fabrizio, Patrizio, ben ascoltato, non so come ne ascolti tu, lì da te, io ti ascolto con un segnale di 8 e radio 5, avanti a te Patrizio. Ok, io mi chiamo Franco, dalla città di Sorso, provincia di Sassari. Ok, allora ne prendo io, probabilmente ti riferisci a me, io sono Giulio dalla città di Sassari, Sassari città, in compagnia di un altro amico, anche lui di Sassari città, che ti mando avanti, avanti Franco di Sassari per l'amico Fabrizio o Patrizio, non ricordo bene il suo nome nativo, dalla Svizzera, vai Franco. Fabrizio, purtroppo con tutta la buona volontà non riesco proprio a tirarti fuori, sento che parla ma non arriva di radio, mi dispiace Giulio, quindi dalla Svizzera, caspitina, grazie a voi che lo sentite, riprendi Giulio. Ok, riprendo di nuovo io, Fabrizio, o Patrizio, no, non mi è chiaro il tuo nome comunque, ti comunico che l'amico Franco di Sassari non ti ascolta, la tua modulazione è troppo bassa, per cui ti faccio i saluti da parte sua. Ok, riprendi ancora amico della Svizzera, chiariscimi qual è il vero nome, Patrizio o Fabrizio, vai ancora l'amico della Svizzera. Ok, ho capito perfettamente il tuo passaggio, Patrizio, io sono io che ringrazio te per essere entrato in collegamento con la Sardegna, ripeto ancora una volta, Giulio da Sassari, che ti super saluta e spera di riascoltarti ancora prossimamente, magari in condizioni anche migliori, se fosse possibile. Ti mando avanti l'amico di Sorso, cioè della provincia di Sassari, distante 20 km da dove mi trovo io, per cui te lo mando avanti per i saluti finali, vai Franco. Va bene Fabrizio, io ti ringrazio per questo del piccolo QSO, perché anche io ti ascolto molto bene, la radio è meravigliosa. Cosa ti posso dire? Buon proseguo di serata, buon tutto, ce la raccontiamo alle migliori, sperando che la propagazione ci aiuti. Mi ha fatto piacere di sentirti alle migliori. Ciao Patrizio, ci sentiamo alle prossime. Grazie per il QSO che mi avete fatto sentire dall'Italia, sempre bello sentire l'Italia. Ciao Patrizio. Oh, per un attimo l'ho sentito, ciao Patrizio, allora, un attimo ho aumentato un segnale di 1-2 e poi è di nuovo scomparso. Sì, mi è arrivato a 9 per me e poi è sceso di nuovo a 3.